Giro di vita di Achille Corea e Fabrizio Intonti. Che raccontiamo oggi in fondo è la storia di tante storie, un ragazzo o una ragazza che imparano a suonare la chitarra o la batteria o passano le ore a esercitarsi al pianoforte, al contrabbasso, al sassofono, oppure cantano e qualcuno gli dice: ma che bella voce che hai, no? E hanno la passione per la musica. La passione per la musica è bella, ma ti frega, perché tu mentre canti o suoni nella tua cameretta ti immagini allo Stadio Olimpico davanti a 100.000 persone o a Sanremo o a fare i video con tutte le ragazze o i ragazzi che ti aspettano sotto casa, e poi arriva un momento in cui ti scontri con la realtà e che senti la canzone di Gianni Morandi, uno su mille ce la fa, che ti dicono: ma perché non ti trovi un lavoro serio? E tu lì pensi che se non sei diventato Vasco Rossi o Bono Vox o Laura Pausini ti devi trovare un lavoro serio, e te lo trovi. Ma la musica ti frega, e anche mentre c'hai il lavoro serio continui a suonare e a pensare che dovresti fare quello per mestiere. Oggi parliamo di questo qua, di chi cambia vita per la musica e per suonare. Se l'avete fatto, se ci avete provato, se ci state pensando, 800 24 00 24. Tutta la vita a far suonare un pianoforte, lasciandoci dentro anche le dita. Agosto, la puntata numero 22 di Giro di Vita. Abbiamo superato la quarta settimana, che insomma è sempre una notizia positiva di questi tempi. Benvenuti, io sono Achille Corea, questa è Radio 24 e questo è Giro di Vita, il programma che vi racconta storie e che raccoglie le storie di chi ha cambiato tutto e si è inventato un nuovo inizio. Se volete contattarci e parlare con noi, 800 24 00 24, oppure la mail girodivita@radio24.it, oppure abbiamo Facebook. Se anche voi ci siete su Facebook, cercate Giro di Vita, schiacciate mi piace e dialogate con noi o con i nostri ascoltatori. Io do il benvenuto in studio a Filippo. Ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Ti sei riconosciuto in questa descrizione iniziale, passione per la musica e trovati un lavoro serio? Volevo dire amen addirittura alla fine di quello che stavi dicendo, per cui sì, direi proprio che mi sono riconosciuto, anche se in realtà io la passione per la musica insomma l'ho coltivata fin dall'inizio, fin da quando ero molto giovane, e quindi me la sono portata appresso per tutto il tempo, sia insomma per la fase in cui poi mi sono trovato un lavoro serio e sia poi appunto per quando ho cambiato. Vogliamo dire qual era il tuo lavoro serio? Io facevo il ricercatore iconografico a Mediaset, diciamo l'ultimo dei lavori seri che ho fatto, quello più serio di tutti. Mediaset la conosciamo tutti, esatto. Ma che cosa fa un ricercatore iconografico? Lavora al telegiornale e lavora all'archivio immagini. Praticamente il giornalista va dal ricercatore iconografico e dice: ricercatore iconografico, mi trovi le immagini che mi servono per questo servizio che devo montare sul maltempo, su non so, su un nubifragio. Ah, ok, tu trovi quelle belle immagini. Tu trovi quelle immagini che normalmente insomma sono... Scusami, ho pensato, non so, a Cesare Buonamici o a Sposini che venivano e ti dicevano: ricercatore iconografico, non era? Era più o meno così. Era esattamente così. Va bene, senti, e tu eri lì, avevi insomma il tuo bel contratto, la zia, cioè quelle cose che poi a casa si raccontano: mio figlio lavora a Mediaset, cose così. Esatto. E a un certo punto che è successo? A un certo punto è successo che quando mi hanno proprio assunto, quindi appunto mi hanno fatto il contratto a tempo indeterminato, ho cominciato ad avvertire che qualcosa nella mia vita stava andando dalla parte sbagliata, semplicemente, perché appunto contestualmente continuavo a coltivare la mia passione per la musica. Io insomma avevo studiato chitarra, jazz e quant'altro, e avevo già formato questo gruppo che si chiama I Cara Serena, di cui mio fratello è appunto l'altra parte importante, e stavamo per pubblicare questo disco e sentivo che non riuscivo a fare entrambe le cose. E dunque mi sono trovato a pensare che forse a 35 anni, adesso ne ho 37, era giunto il momento di fare una scelta e quindi stabilire quale fosse la priorità nella mia vita. E hai scelto la musica. E ho scelto la musica, ho evitato appunto che le cose andassero un po' per conto loro, perché ovviamente stavo comodo, perché insomma guadagnavo più di quello che mi serviva e stavo in un bel posto, perché insomma il Centro Palatino, non so se tu lo conosci, comunque è un posto bellissimo che sta proprio in cima a un colle di Roma, una redazione molto piacevole, il lavoro era anche divertente e piacevole, però insomma mi toglieva molte energie rispetto a quello che amavo, e a un certo punto ho detto basta e ho deciso di licenziarmi. Tu sai benissimo che il licenziamento così è considerato mediamente una follia, no? Sì. Cioè la dimissione da questo punto. E tu, tra l'altro, se non ho capito male, non l'hai fatto nemmeno a seguito di un primo posto in classifica. Tu hai proprio scelto a un certo punto di dimetterti per provare a fare musicista come volevi, seriamente. Beh, intanto perché se avessi aspettato il primo posto in classifica avrei rischiato di non licenziarmi mai. E poi perché... Che genere musicale fate? E facciamo... sai, questa è la domanda più difficile che sì, puoi fare. Sì, comunque diciamo pop... canzone d'autore, una cosa che sta più o meno in mezzo a questo territorio, e quindi sì, a un certo punto pur sapendo che andavo incontro a un periodo difficile in termini proprio di risultati pratici, perché insomma sappiamo che ormai chi si confronta con l'ambiente musicale si confronta grosso modo con la categoria dell'impossibilità, quindi sapevo che quella cosa insomma non mi avrebbe dato una vita semplice, però al tempo stesso sapevo che insomma non avrei mai avuto nulla da rimproverarmi di lì in poi, e questo mi tranquillizzava molto. Com'è cambiata la tua vita? Cioè a cosa hai rinunciato proprio quotidianamente pur di poter fare questo? Allora partiamo dal presupposto che mio padre mi aveva lasciato una casa in cui io vivo e quindi non dovevo pagare un affitto. Questo è una fortuna, però non è nemmeno un delitto. Diciamo che è una condizione che mi consentiva di fare questa scelta, non dico a cuor leggero, però insomma con un minimo di serenità in più. Ho rinunciato a tutte le cose che non mi servivano, e questo secondo me è il punto fondamentale di tutto questo, perché sono stato costretto a scegliere alcune cose, a quelle che mi sembravano utili alla mia, non solo alla mia vita, ma proprio al mio benessere, quindi ho smesso di prendere la macchina, per lo più vado in bicicletta anche a Roma, e per quanto possa essere pericoloso è anche divertente, anzi lo consiglio a chi vuole provare diciamo delle vite estreme, e poi io, diciamo, ho smesso di diciamo desiderare cose che non mi servivano, appunto, quindi comprarmi le cose, vestiti, adesso non so neanche io insomma. Po' contro però anche la figura semplice. del musicista che poi sfascia le suite degli alberghi. Ma sai, insomma, hai fatto un po' di rinunce. Dimmi però cosa ti hanno detto anche, cioè in famiglia, gli amici. Vabbè, ovviamente mia madre il primo periodo è stato complicato. Abbiamo fatto grosse sedute di insomma psicoanalisi insieme, ci siamo confrontati. No, è stato difficile ovviamente per tutti, soprattutto per lei, però poi ha capito e adesso insomma è assolutamente felice che io sia contento. I miei colleghi mi hanno invece sostenuto tantissimo, perché un po' perché si specchiavano in quello che facevo, perché insomma ovviamente quella comunque la vita del lavoratore, non so neanche come definirlo esattamente, ha le sue controindicazioni, provoca un po' di alienazione, insomma andare tutti i giorni in un posto a lavorare, insomma, quella cosa. E quindi insomma in molti mi hanno veramente dato un supporto, molto sì. Supporto. Dimmi una cosa, tanto poi rimani qui con noi in studio, sentiremo altre storie, testimonianze, ma rimani con noi. Mi dici un momento in cui hai pensato chi me l'ha fatto fare e un momento in cui hai detto ah, sono proprio contento di averlo fatto. Beh, diciamo, il momento in cui ho pensato chi me l'ha fatto fare è quando mi sono arrivate le prime royalties dei dischi che avevo venduto. Il primo bonifico. Il primo bonifico che non posso dire di quanto fosse, perché sono cifre che non si possono neanche raccontare, anche perché c'è mia madre in ascolto e non vorrei farla preoccupare più di tanto, però quello è stato un momento in cui ho detto adesso che come mi regolo, però insomma poi ho superato la vicenda. Invece il momento in cui diciamo ho capito che insomma avevo fatto la cosa giusta più o meno è quando mi sveglio la mattina tutti i giorni e dici io oggi farò musica. Esatto. Va bene, ti facciamo una domanda rituale poi andiamo avanti. La valigia e la zavorra. Allora qui pensaci un attimo, perché questa qui è proprio una domanda che noi facciamo a tutti: cosa ti sei portato dietro della tua vita precedente e che cosa hai buttato? Questa non è facile, effettivamente. In realtà è facile. Sì. Mi sono portato dietro tutte le persone che ho conosciuto, che comunque ho avuto, insomma, ho avuto la fortuna di incontrare molte persone e di farmi molti amici nel posto in cui lavoravo, e quello comunque è un patrimonio che peraltro mi serve, mi è servito e mi servirà anche in quello che sto facendo e che farò. Tieni conto che anche lavorare in un contesto molto organizzato ti insegna un sacco di cose, proprio a vivere nel mondo, a essere in qualche modo integrato e non disadattato come è di solito chi fa questo mestiere. E che cosa hai buttato? Ho buttato... Niente. No, perché in realtà io ti confesso che sono sempre stato abbastanza attento in generale, non mi sono mai riempito di cose inutili, per cui no, non ti saprei dire al volo cosa ho buttato, magari ci penso e te lo dico. Pensaci, segnatelo, noi andiamo avanti con la nostra trasmissione, sentiamo un pezzettino però, perché magari qualcuno è venuto la curiosità, che musica fa questo Filippo? Fondo di tazzina, prima verifica dell'autostima. Una formica sul letto, più la guardo e meno mi sembra che abbia un progetto. Sei tu a cantare qua? Sì, sono io. Ok, allora Filippo rimane con noi in studio. Questi erano appunto i Cara Serena e noi continuiamo con un pochino di controindicazioni però. Che non abbiamo, no, cioè, allora il problema non è un problema di abbiamo le controindicazioni, no, allora cioè, possiamo cambiare anche al volo la scaletta, non c'è nessun problema, e magari decidere di sentire qualcuno per chiedere cosa succederebbe se questa cosa la facessi io. E se lo facessi io? Ora questo è il momento, mentre noi vi invitiamo a chiamare all'800 24 0024 per raccontarci storie simili o storie dissimili, contrarie, come volete voi, in cui sentiamo una persona che lavora nel campo di cui parliamo oggi e ci dice come va. Paola Zuccar, pronto? Achille, ciao. Paola, allora tu hai una società che si chiama Big Picture Management, ti occupi di artisti come Fabri Fibra e Marrakesh, esatto. Soprattutto hip hop, hai lavorato per molti anni in Universal Music, insomma ne hai visti di artisti passare e di successi passare, ma com'è cambiata la situazione in questi ultimi anni? A precipizio, direi che negli ultimi, da quando ho cominciato io, in effetti non so se sono io, ma da quando ho cominciato io è andata veramente a precipizio, a rotta di collo. Diciamo che anni fa, fino a 15 anni fa, era totalmente diversa, si stava bene, era un'industria in salute, nonostante sempre problemi di bootleg, di mercato nero e tutto quello che vuoi, però tutto sommato andava bene. Negli ultimi anni effettivamente c'è stato un po' un tracollo e ora diciamo che la tempesta perfetta, quindi situazione radio, bootleg, internet e tutto ha convogliato verso un'unica situazione, che è quella che diceva Filippo prima degli assegni royalties che si fa fatica a raccontare, insomma. Senti, ora non stiamo a fare i conti in tasca, ovviamente, agli artisti vari, anche perché poi, insomma, dipende molto dagli artisti. Suppongo che Ramazzotti non guadagni quanto un jazzista, diciamo, alle prime armi o al primo disco. Ma quanto si può guadagnare con la musica? Ad esempio, mettiamo, io adesso faccio un disco ed è un disco di successo. Quanto guadagno? Ma dipende che risultati ottieni. Adesso c'è da dire anche questo, che ci sono quasi più artisti che consumatori, paradossalmente, no? Quasi tutti cercano di provarci, un po' come ha fatto Filippo, altri anche con meno talento sicuramente, quindi i dischi sul mercato sono sempre di più, tra l'altro li trovi in free download, li trovi in tutti i modi, ci sono, ecco, diciamo che ci sono anche molte opportunità in più rispetto al passato di farsi notare, se non che sono anche molti di più. Quindi arrivare a un disco d'oro oggi, che una volta, fai conto, partivi dalle 500.000 copie, adesso è 30.000 copie, fai due conti, e se vuoi li facciamo insieme, a tutti gli effetti un disco d'oro, e ti dico, avercene rende pochino se non ci metti intorno tante altre cose che ti fanno, diciamo, completare il quadro. Ecco, facciamo un esempio. Quanti dischi d'oro ci sono all'anno, giusto per capire? più o meno. Non te lo so dire, ma non molti. No, 10, 20, così. Sì, ecco, sì, allora, sì. Io faccio uno di questi 10-20 dischi d'oro, vendo 30.000 copie, quindi insomma sono abbastanza famoso, quanto guadagno? Più o meno? Poco, perché 30.000 copie, fai conto che se sei un artista giovane che vende il suo disco, diciamo che quello che è il cosiddetto PPD sono 10,50 euro, quindi esce al pubblico a 15,90 euro. Su 10,50 euro che ti dividi con la casa discografica, metti che la casa discografica ti dia dall'8 al 12% di questi. Di questi 10 euro sono 1 euro a copia per 30.000, levaci un terzo se non più di tasse, il conto è presto fatto. Quindi praticamente io ho il paradosso di un artista famoso che guadagna quanto un impiegato. Sì, con disco e basta sì, alle volte si pensa che disco d'oro e disco di platino svoltino una vita, barra una carriera, in realtà non è assolutamente così. Come ti dicevo prima, adesso più che mai devi unirci tante altre cose che grazie a questa fama acquisita ti fanno suonare in giro, quindi hai un tour di successo, quindi magari riesci a chiudere delle sponsorizzazioni per il tour, per i video. Però insomma rimorchi di più, almeno questo diciamo, cioè, guarda, sì, questo a quello che ho visto degli artisti miei effettivamente quello sì. Senti, ma tu che hai questi artisti pop che poi hanno anche questo mito della strada, poi lo fanno un altro lavoro per mantenersi alcuni di loro o no, o comunque ce sì, la all'inizio fanno? All'inizio sicuramente sì, poi ti dico artisti che firmano con major discografiche, alla fine come dicevi tu prima uno stipendio fra virgolette ce l'hanno, gente ce l'hanno, quindi poi non sono costretti a fare anche un altro lavoro, anche perché calcola che il lavoro in major comunque, che consta di promozione, tour, studio, è veramente... Prende via tutta la giornata. Tutta la giornata, sì, e ti dico che le ferie non sono di più di va quelle bene. che fa qualcuno altro. Paola, ti ringrazio, Paola Zucar, per essere stata con noi ed averci dato questa visione sul mondo della musica attuale. La mia ragazza non è una diva, Fabri Fibra, Daniele Vitt, e il mio stipendio quando è che arriva? Chi vuole essere Fabri Fibra? E il mio stipendio quando è che arriva? Dice Fabri Fibra. Beh, io spero che almeno Fabri Fibra, cioè oltre allo stipendio, abbia qualcosa di più, perché sennò qui siamo messi male. 800 24 00 24, questo è Giro di Vita e sentiamo delle storie di chi ha lasciato un lavoro per la musica o il contrario. Gianpiero Lotito, benvenuto. Buongiorno. Gianpiero, tu ho cercato, ho visto anche su internet che negli anni '80 avevi un'attività musicale in piena regola, di un certo successo. Sì, vero, vero. Che cosa, che genere, che cosa facevi e con che riscontro? Oggi prenderebbe il nome di musica etnica, di pizzica, di tarantelle. All'epoca si chiamava musica di tradizione popolare del sud Italia e aveva poca attenzione in Italia ma grandissima all'estero. E quanto, diciamo, che tipo di successo avevi? Vendevi dischi, facevi tour? Noi arrivammo a fare nel 1985 un disco dal vivo registrato ad Atene in Grecia con la Polygram, con tanto di tournée del disco dal vivo, perché avevamo un successo abbastanza clamoroso all'epoca in quel paese. E da lì cominciamo poi a girare in tutta Europa fino ad arrivare negli Stati Uniti e a suonare fino al Lincoln Center. Quanti anni avevi tu all'epoca? Ero uno studente, un aspirante medico che poi ha preso altre strade, quindi avevo 20 anni e poco più. E perché hai smesso a un certo punto? Che cosa fai adesso? Dillo ai nostri ascoltatori. Io da 20 anni faccio il tecnologo, cioè mi occupo di tecnologie digitali, scusa, dedicate all'editoria, ai contenuti digitali. E tra le altre cose sto lavorando a un motore di ricerca di prossima generazione che si chiama Facility, scrivo libri, faccio altre cose. E sei contento? Lontane. Contentissimo. Ma scusa, ci pensi mai, soprattutto adesso che questa musica popolare, etnica, va di gran moda, che potevi fare quello per sempre? Beh, intanto sono contento che accada, perché la pulsione che c'era da ragazzo, io sono lucano, sono di Potenza, nato a Potenza, ma vivo in Lombardia, a Pavia, quando avevo 18 anni, quindi l'idea che quelle cose in cui credevamo all'epoca io e i miei amici che suonavano con me oggi siano note, siano anche qualcosa che ha avuto successo, è un'idea che mi piace. Rimpiangerla, non lo so, sai, io i miei sfizi me li sono tolti suonando, ho girato il mondo quando era molto difficile per un ragazzo farlo, ho fatto esperienze irripetibili per me e quindi sono contento di aver poi a un certo punto detto meglio lasciare con questo tipo di ricordo dell'esperienza che ho fatto piuttosto che scoprire un giorno che poteva essere qualcosa di deludente o con cui io dovevo lottare in qualche modo, in modo negativo. Poi ho continuato a fare comunque tante altre cose. E quindi sei contento così. Va bene Giampiero, io ti ringrazio per questo tuo intervento e niente, adesso prendiamo un po' di telefonate, fatemi sì, 800 24 00 24, Alberto, pronto? Buongiorno, ciao. Ciao. Alberto, hai cambiato vita per fare il musicista? Sì, abbastanza, è una scelta radicale. Che cosa facevi prima? Io ero nel settore dell'informatica, io sono ragioniere diplomato. E che cosa? All'epoca i primi, parliamo del fine anni 80, quindi i primi personal computer, cioè io mi occupavo di quelle cose lì, programmavo, mi curavo la parte amministrativa delle aziende, quindi una specie di consulente del reparto amministrativo. A che età hai cambiato, per saperlo? A che età hai fatto? Allora, in realtà io comunque la passione ovviamente ce l'avevo da piccolo, però la scelta è effettivamente a 30 anni. Che genere di musica? Attualmente faccio genere, diciamo, io faccio divertire la gente, ho una band, giro un po' l'Europa e faccio un genere, chiamiamolo happy music, ecco, per dare una definizione, ma una ci si vive, cioè tu vivi solo di questo? Sì, solo di questo, faccio circa 150-200 serate all'anno in giro per l'Europa, insomma ci si diverte, insomma adesso ancora per me forse anche una questione di fortuna, però insomma ci si vive, ecco. Si vive in cinque, perché è una band di cinque elementi di gente che... Scusa, ma tu fai 150 serate, ma e poi hai una famiglia che ti aspetta a casa? No, ecco, ti dicevo, la mia famiglia in realtà è la band, però tutti gli altri elementi della band hanno famiglia, quindi se vuoi un po'... Diciamo, quello lì sarà il momento, sì, quello sarà poi anche il momento. Allargata. Grazie Alberto per essere intervenuto a Giro di Vita. Questa scelta di vita è sconsigliata se... Quando invitate gli amici alle vostre esibizioni, la prima domanda è: non è che si paga? La vostra carriera è iniziata da una cantina ed è arrivata alla sagra dello gnocco fritto. Il vostro brano live più applaudito è Bianco Natal. Se dopo un'audizione vi hanno detto: non ci faremo certo sentire noi. Siete nati come cover band dei Genesis, ma siete finiti a cantare Maracaibo sulla spiaggia. E vabbè, questo era un profilo, devo dire, veramente, veramente impietoso. Che questo vedo, sento la mano di Fabrizio Intonti dietro questo diciamo profilo. Stavo guardando i commenti su Facebook, Giro di Vita, c'è Stefano che però non ci ha spiegato bene, perché ha scritto: oggi, primo giorno di ferie, ho smontato la sala prove per trasformarla nella sala giochi di mio figlio. Quindi mi sa che qui la famiglia ha fatto un po', diciamo, ha spinto Stefano a uscire Dal settore. Marta, pronto? Ciao Achille. Ciao Marta. Eccoci. Quanti anni hai, Marta? Una voce giovanissima. 26. Sì, 26. Hai cambiato vita? Io ti dirò, faccio un po' il contrario del radioascoltatore che ha scritto in Facebook, nel senso che la famiglia la devo un po' bypassare. Ti spiegherò. Allora, ho un'impresa a livello familiare, quindi io rappresento la terza generazione, sono laureata in economia, quindi tutto pronto per prendere il posto di mio papà in azienda. Il problema è che da quando ho anni che io sono le percussioni. Le quindi percussioni? Sì, sono una percussionista. Ma tipo quindi i bonghi, queste cose qui che tutto, si vedono nei parchi? Sì. Batteria, xilofono, timpani, il triangolo, cioè tutto. Che poi cosa. Una cosa sta, la donna che suona le percussioni, la batteria, ma finalmente, sì. Sì, è una cosa un po' strana, anche perché a livello fisico spostare le percussioni non è una cosa simpatica da fare. E quindi che farai? Suonerai questo nella vita? Allora, l'idea è quella, sì, mi sono iscritta al Conservatorio di Brescia e a settembre avrò l'esame di ammissione, quindi il giro di vita è abbandonare un po' i doveri familiari, quindi l'impresa appunto di famiglia, e prendere questa strada. Va bene Marta, noi ti facciamo un in bocca al lupo, che tu diventi, che tu possa diventare una grandissima batterista. Filippo, ecco, allora, queste storie che hai sentito, le ascoltate con molta attenzione, ti hanno spronato, ti hanno fatto sentire contento? Ma guarda, contento non lo so, però mi hanno convinto di quello che già pensavo, cioè che ci sono cose che ti sembra di scegliere, ma forse non le scegli poi veramente, forse è proprio che non puoi farne a meno, ecco. Almeno per me è stato così fondamentalmente, anche sentendo gli altri mi rivedevo proprio in questa cosa. Va bene, grazie Filippo. Un bocca al lupo anche te per il tuo gruppo Cara Serena. Noi oggi ve li abbiamo un po' suonate, magari un altro giorno torneremo a cantarvele. Beh, battuta, proprio questa non me la sono preparata, pensa se me la preparavo. Grazie ad Alessandro Chiappini in regia, e torniamo domani per un nuovo Giro di Vita. Se avete una seconda vita o la state inseguendo, raccontatela alla nostra segreteria 828 1111.